di Anne-Marie Selinco, Désirée, Garzanti Editore, traduzione di Carlo Picchio. Alla memoria di mia sorella Liselotte, della sua gaiezza e della sua bontà con profondo dolore. 1. La figlia di un mercante di sete di Marsiglia. Marsiglia ai primi di Germinale, fine marzo 1794, secondo l'antiquato calendario di mamma. Io sono convinta che una donna può davvero ottenere molto da un uomo quando possiede un bel seno rotondo. Mi sono proposta per questo di imbottirmi per benino la scollatura con quattro fazzoletti domani, così da acquistare l'apparenza di una signorina cresciuta. Certo, io sono già cresciuta e del tutto, naturalmente, ma è una cosa che so io soltanto e ancora non la dimostro a chi mi guarda. Nel novembre scorso ho compiuto 14 anni e papà per il mio compleanno mi ha regalato questo bel diario. Certo, è un peccato riempire di scrittura queste delicate pagine bianche. E questo mio libro è anche munito di una sua piccola serratura, così che lo posso chiudere a chiave. Neppure mia sorella Giulia saprà quello che vi sarà scritto. È stato l'ultimo regalo del mio buon papà. Il mio papà era il negoziante di sete Francesco Clarì di Marsiglia ed è morto 2 mesi fa di polmonite. E che cosa devo scrivere in questo libro? Gli domandai un po' confusa. Papà sorrise e mi baciò sulla fronte. La storia della cittadina francese Bernardina Eugenia Désirée Clarì, rispose. E improvvisamente mi accorsi dalla sua faccia che era commosso. Incomincio questa notte a scrivere la mia storia futura, perché sono tanto agitata che non mi riesce di prendere sonno. Così sono scivolata pian piano giù dal letto e spero che Giulia, la quale dorme nella mia stessa camera, non si desti al bagliore della fiamma vacillante di questa mia candela, perché Giulia, ne sono certa, mi farebbe una tremenda scenata. Sono agitata, perché domani con mia cognata Susanna devo andare dal rappresentante del popolo al BIT e pregarlo che venga in soccorso di Stefano. Stefano è mio fratello maggiore e ne va della sua testa. Il perché non lo sappiamo, ma sono cose queste che possono succedere facilmente di questi tempi. Ancora non sono trascorsi 5 anni da quando abbiamo avuto una grande rivoluzione e molti dicono che non è ancora finita. Comunque, ogni giorno davanti al municipio ghigliottinano molte persone ed è pericoloso per la propria vita avere dei parenti aristocratici. Ma noi, grazie al cielo, non siamo imparentati coi nobili. Papà si è fatto col proprio lavoro ed è riuscito a trasformare la botteguccia di suo padre in uno dei più importanti negozi di setterie di Marsiglia. E papà è stato molto contento quando è incominciata la rivoluzione, anche se poco prima era diventato fornitore di corte e aveva mandato del velluto di seta azzurra alla regina. Quella stoffa non c'è mai stata pagata, dice Stefano. Papà aveva gli occhi umidi quando ci lesse il foglio volante sul quale per la prima volta erano stati stampati i diritti dell'uomo. Da quando è morto papà, Stefano manda avanti lui il negozio. Dopo l'arresto di Stefano, la nostra cuoca Maria, che prima è stata la mia balia, mi ha preso in disparte e mi ha detto: Eugenia, ho sentito dire che Albite verrà nella nostra città. Tua cognata deve andare da lui e tentare di ottenere la liberazione del cittadino Stefano Clarì. Maria sa sempre tutto quello che succede in città. A cena eravamo tutti molto tristi. Due posti erano vuoti, la sedia di papà accanto a mamma e quella di Stefano accanto a Susanna. Mamma non permette a nessuno di sedersi al posto di papà. Io pensavo continuamente ad Albit e facevo delle pallottoline con la mollica del pane. E allora Giulia, ha appena 4 anni più di me, ma pretende di trattarmi sempre come una bambina ed è una cosa che certe volte mi fa diventare furiosa. Giulia allora ha detto subito: Eugenia, non è buona educazione fare delle pallottoline con la mollica del pane. Io ho smesso e poi ho detto: Albita è in città. Le mie parole non hanno fatto nessuna impressione, perciò io ho ripetuto: Albit è in città. Finalmente mamma ha domandato: E chi è Albit? Susanna non ascoltava, singhiozzava sulla sua minestra. Albit è il deputato giacobino di Marsiglia, ho detto io, orgogliosa del mio sapere. Resterà qui per una settimana e di giorno lo si può trovare alla Maison Commune. E Susanna dovrebbe andare domani da lui e domandargli perché Stefano è stato arrestato. E poi gli dovrà spiegare che non si può trattare d'altro che di un malinteso. Susanna levò gli occhi e singhiozzò. Ma non mi riceverà. Io credo che sarà meglio che Susanna preghi il nostro avvocato di parlare lui ad Albit, osservò la mamma esitante. Mi capita spesso di dovermi arrabbiare con quelli della mia famiglia. In casa nostra, mamma non permetterebbe neppure che si metta al fuoco un bicchiere di marmellata senza che lei vada personalmente a rimescolare almeno una volta nella pentola. E poi tutte le cose più importanti, più gravi, le affida al nostro decrepito avvocato. Per quel che posso giudicare io, molti adulti sono fatti in questa maniera. Bisogna che ci andiamo noi a parlare con Albit, ho detto io. Susanna deve andarci lei, che è la moglie di Stefano. E se a te, Susanna, manca il coraggio, mi ci proverò io e chiederò io ad Albit che il nostro fratello maggiore sia rimesso in libertà. Tu avresti il coraggio di andare alla Maison Commune? Disse mamma e riprese in mano il ramaiuolo. Mamma, io trovo che vorrei che non si parlasse più di questa faccenda, disse mamma. Susanna singhiozzava di nuovo sulla sua minestra. Dopo la cena scappai su nelle soffitte per vedere se Person era in casa. Person la sera impara il francese da me. Ha la più simpatica faccia cavallina che si possa immaginare. È molto alto di statura, è spaventosamente magro ed è l'unico biondo che io conosca. E per giunta è svedese. Sa Dio dove si trova la Svezia? Deve essere da qualche parte nei dintorni del Polo Nord, penso io. Veramente una volta Person me l'ha fatta vedere sulla carta geografica, ma io l'ho dimenticato. Il padre di Person a Stoccolma ha un negozio di seterie che è in relazione d'affari con la nostra ditta e così il giovane Person è venuto per un anno qui a Marsiglia a fare servizio come volontario da papà perché il commercio delle seterie non si può imparare che a Marsiglia, così dicono tutti. Un bel giorno Person è capitato qui da noi. A tutta prima non riuscivamo affatto a capirlo, sebbene lui pretendesse di parlare francese con noi. E infatti quel che diceva suonava un po' come francese. Mamma gli assegnò una stanza in soffitta e disse che in questi tempi agitati Person doveva abitare in casa nostra. Trovai Person in casa, è un giovane così serio, e ci sedemmo nella stanza di soggiorno. Generalmente lui legge i giornali e io correggo la sua pronuncia e, come già altre volte, io avevo preso con me quel vecchio foglio volante con i diritti dell'uomo che papà aveva, tempo addietro, portato a casa e con Person lo recitavamo l'uno all'altra perché volevamo imparare il testo a memoria. La faccia cavallina di Person si fece seria seria. E lui disse che mi invidiava, perché appartengo alla nazione la quale ha donato al mondo queste grandi idee: libertà, eguaglianza, sovranità popolare. Così declamava accanto a me. E poi disse: è stato sparso molto sangue perché si potessero proclamare queste nuove leggi, e anche molto sangue innocente. Ciò non deve essere avvenuto invano, mademoiselle. Person è uno straniero, dice sempre madama alla mamma e mademoiselle Eugenia a me, sebbene ciò sia proibito, noi siamo semplicemente le cittadine Clary. Improvvisamente capitò Giulia nella stanza. Ti prego, Eugenia, mi disse, vieni un momento con me e mi condusse nella camera di Susanna. Susanna era accoccolata su un divano e stava sorseggiando del vino di Porto. Per quel che dicono, il vino di Porto dà forza, ma a me non ne danno mai neppure un bicchiere perché le ragazze giovani non hanno ancora bisogno di fortificarsi, così dice mamma. Accanto a Susanna stava seduta mamma e io potevo vedere come lei facesse del suo meglio per essere energica, ma in questi casi la mamma sembra più che mai delicata e smarrita, si stringe nelle sue piccole spalle e la sua faccia diventa piccina piccina sotto la cuffietta nera che porta da 2 mesi in qua. La mia povera mamma ha molto più l'aspetto di un'orfanella che non quello di una vedova. Abbiamo deciso che domani Susanna cercherà di farsi ricevere dal rappresentante del popolo Albite e si schiarì la gola e tu l'accompagnerai, Eugenia. Io ho paura di andare sola con tutta quella gente, mormorava Susanna. Io mi persuasi che il vino di Porto non le dava forza, ma che la insonnoliva e mi meravigliai che dovessi andare io con lei e non Giulia. Susanna farà questo tentativo per amore di Stefano e sarà un conforto per lei, bambina mia, sapere che tu sarai al suo fianco, disse mamma. Naturalmente là tu starai zitta e lascerai parlare Susanna, aggiunse sollecita Giulia. Io fui molto contenta che Susanna avesse deciso di andare dal BIT. Era la via migliore, anzi, secondo me, l'unica. Ma siccome mi trattano sempre come una bambina, ho taciuto. La giornata di domani sarà molto agitata per tutti, disse mamma e si levò. Per questo sarà bene che ce ne andiamo a dormire presto. Io sono tornata di corsa nella stanza di soggiorno e ho detto a Person che dovevo già andarmene a letto. Lui allora ha raccolto tutti i giornali e si è inchinato. E allora vi augurerò buon riposo, Mademoiselle Clary. Ero già quasi fuori dall'uscio quando lui improvvisamente mormorò qualche cosa. Mi voltai indietro. Avete detto qualche cosa, signor Person? Soltanto che... E si interruppe esitante. Io tornai da lui e cercai di guardarlo in faccia. Era già quasi buio ed ero troppo pigra per riaccendere le candele. D'altra parte, stavamo per andarcene a letto. Il volto pallido di Person sfumava completamente nel buio. Ecco, volevo soltanto dire che io, sì, che io partirò presto per tornare a casa mia. Oh, questo mi spiace, monsieur, e perché? Ancora non l'ho detto a Madame Clary. Non volevo incomodarla proprio adesso con le mie faccende, ma vede, signorina, è già più di un anno che sto qui e nel nostro negozio a Stoccolma hanno di nuovo bisogno di me e se il signor Stefano Clary ritornerà, allora qui da voi tutto sarà a posto. Credo anche nel negozio, allora io partirò per Stoccolma. È stato il discorso più lungo che io abbia mai udito da Person e non riuscivo neppure a capire perché informasse proprio me per la prima della sua partenza. Fino a quel momento avevo creduto che, come tutti gli altri, anche Person non mi prendesse molto sul serio, ma ora, naturalmente, volevo continuare la conversazione. Tornai verso il divano e con un gesto della mano molto da signora gli feci intendere che doveva sedersi accanto a me. Appena si fu seduto, la sua lunga e magra persona si ripiegò su se stessa come un coltello da tasca, appoggiò i gomiti sulle ginocchia e si vedeva che non sapeva che cosa dire. «È una bella città, Stoccolma?» domandai cortesemente. «Oh, è la più bella del mondo per me!» dichiarò Person. «Verdi lastre di ghiaccio vagano sul Möller e il cielo è bianco come una coperta da letto di bucato. D'inverno, naturalmente, ma da noi l'inverno è molto lungo. Ecco, proprio bella non mi sembrò che dovesse essere Stoccolma dopo quella descrizione. Al contrario!» E anche non riuscivo a capire bene dove mai galleggiassero quelle verdi tavole di ghiaccio. Il nostro negozio si trova nella Fährstellangtan, la più moderna via commerciale di Stoccolma, proprio dietro al Castello Reale, disse Person con orgoglio. Ma io non stavo molto a udirlo. Pensavo a domani e che mi dovevo ficcare i fazzoletti nella scollatura e... «Vorrei pregarvi di una cosa, signorina Clary. Udì ad un tratto la voce di Person. Dovrò sembrare più graziosa che mi sarà possibile perché Stefano venga rimesso in libertà, almeno in grazia mia», stavo pensando e domandai cortesemente. «Di che cosa, signore? Mi farebbe tanto piacere poter conservare quel foglio dove sono stampati i diritti dell'uomo e che Monsieur Clary portò a casa quella volta», disse impacciato. «So bene, mademoiselle, che è una preghiera indiscreta». Era indiscreta davvero. Papà si teneva sempre quel foglio volante sul comodino e dopo la sua morte io me l'ero subito preso per me. «Lo terrò sempre in onore, signorina», assicurò Person. «Allora io lo motteggiai per l'ultima volta. Siete dunque diventato repubblicano, monsieur?» E per l'ultima volta egli mi rispose evasivamente. «Io sono svedese, mademoiselle, e la Svezia è una monarchia». «Potete tenervi il foglio, signore», dissi io, «e fatelo vedere ai vostri amici in Svezia». In quel momento si spalancò la porta e suonò rauca per la stizza la voce di Giulia. «Quando vieni a letto, Eugenia?» «Oh, non sapevo che stavi qui col signor Person. Monsieur, la bambina deve andare a letto. Eugenia, vieni!» Mi ero già messa quasi tutte le papigliotte nei capelli e Giulia se ne stava a letto leticando ancora con me. «Eugenia! Tu ti comporti in maniera scandalosa. In fin dei conti, Persone è un giovanotto e non si sta seduti con un giovanotto al buio. E mamma ha tanti dispiaceri e tu dimentichi di essere la figlia del negoziante di Sete Clarì, la figlia di un cittadino così stimato. E Persone non sa neppure parlare correttamente il francese. Tu fai vergogna alla famiglia. Bla bla bla, pensai. Spensi con un soffio la candela. E mi cacciai tutta ben sotto le coperte. Giulia, ecco, ha bisogno di un fidanzato. Allora la mia vita diventerà meno dura. Ero convinta di questo. Ho cercato di dormire, ma questa visita di domani alla Maison Commune non mi dava pace e dovetti anche pensare alla ghigliottina. Me la vedo davanti così spesso quando sto per addormentarmi e allora sprofondo la testa nei guanciali per scacciarne il ricordo. Il ricordo della mannaia e della testa tronca, perché una volta, 2 anni or sono, mi sono fatta accompagnare di nascosto alla piazza del municipio dalla nostra cuoca Maria. Là ci facemmo strada a fatica attraverso la folla che si assiepava davanti all'ordigno sanguinoso perché volevo vedere bene tutto. Stringevo i denti che battevano orribilmente insieme e ciò mi angosciava. La carretta, tutta dipinta di rosso, portò al patibolo una ventina di persone, uomini e donne. Avevano tutti indosso degli abiti signorili, ma fili di paglia sporca erano attaccati ai pantaloni di seta degli uomini e alle maniche di merletto delle signore. Le loro mani erano legate con delle cordicelle dietro la schiena. Il palco di tavole intorno alla ghigliottina è cosparso di segatura di legno che viene rinnovata la mattina e poi nel tardo pomeriggio, subito dopo le decapitazioni. Ma questa segatura formava un'orribile fanghiglia giallo-rossa. Su tutta la piazza del municipio grava odore di sangue rappreso e di segatura di legno. Anche la ghigliottina, come la carretta, è dipinta di rosso, ma il colore è già sbiadito perché ormai sono anni che è arrezzata in quel posto. In quel pomeriggio il primo della schiera fu un giovanotto di campagna che, per quel che si diceva, si era tenuto in relazione di corrispondenza clandestina con i nostri nemici all'estero. Quando il carnefice lo trascinò sul palco, muoveva appena le labbra, credo che pregasse. Poi si inginocchiò e io chiusi gli occhi e udii il tonfo della mannaia che scendeva. E quando riapersi gli occhi, il carnefice teneva in mano una testa. La testa aveva un volto bianco, come la calce, e degli occhi sbarrati che mi fissavano. Sentii che il cuore mi si fermava. La bocca di quel volto color calce era aperta, come se volesse urlare. E quell'urlo muto non cessava mai. Intorno a noi la gente discorreva confusamente, qualcuno singhiozzava e si sentiva una donna che ridacchiava. Poi mi parve che tutto quel rumore non mi giungesse più che da lontano. Mi si fece buio davanti agli occhi e mi sentii venir meno e vomitai. Poi mi ripresi, capii che si gridava contro di me perché avevo insudiciato le scarpe di qualcuno e io tenevo ancora gli occhi chiusi per non vedere quella testa insanguinata. Maria si vergognò di me e mi trasse fuori dalla folla e io udii che ci gridavano dietro delle parole di scherno. Da quella volta mi succede spesso di non potermi addormentare perché sono costretta a pensare a quegli occhi spenti e a quell'urlo senza voce. Quando rincasammo io piangevo disperatamente. Papà mi cinse col suo braccio e disse: «Il popolo della Francia ha vissuto per secoli tra orribili pene e dal dolore degli oppressi sono guizzate fuori 2 fiamme, la fiamma della giustizia e la fiamma dell'odio. Quella dell'odio si consumerà e sarà soffocata entro i fiumi di sangue, ma l'altra fiamma, quella sacra, mia cara figliuola, non potrà mai più essere del tutto spenta». «Non è vero, papà? I diritti dell'uomo non potranno mai più essere annullati?» domandai. «No, non potranno essere annullati, ma potranno essere aboliti, apertamente o segretamente, potranno essere calpestati. Tuttavia, coloro che li calpestassero si addosserebbero il più grave debito di sangue di tutta la storia. In ogni tempo e in ogni luogo, sempre, quando in avvenire degli uomini priveranno i loro fratelli del diritto alla libertà e all'eguaglianza, non vi sarà nessuno che potrà dire loro: «Signore, perdona ad essi perché non sanno quel che si fanno». Perché, piccola mia, da quando i diritti dell'uomo sono stati proclamati, essi lo sanno e lo sanno bene. Mentre diceva questo, papà, la sua voce aveva un suono particolare, tutto diverso dal solito. Era come, ecco, sì, come io mi immaginavo che debba essere la voce del buon Dio. E più tempo passa da quel discorso, più io capisco ciò che papà voleva dire. E questa notte io mi sento più che mai vicina a lui. Buonanotte, papà caro. Ecco, io ho cominciato a scrivere la mia storia. 24 ore dopo. Sono accadute tante cose straordinarie. Oh, sono la vergogna della nostra famiglia e per di più sono accadute tante cose che non so proprio come farò a scrivere tutto. In primo luogo, Stefano è di nuovo in libertà e si trova al piano di sotto nella stanza da pranzo con mamma, Susanna e Giulia e mangia tanto come se non avesse vissuto che a pane e acqua da 4 settimane e invece non è stato in prigione che 3 giorni. In secondo luogo, ho fatto la conoscenza di un giovane dal profilo interessante e con un nome impossibile, Bonaparte o qualche cosa di simile. In terzo luogo, tutta la famiglia è in collera con me. Mi hanno detto che sono la vergogna della casa e mi hanno spedita a letto. Di sotto loro stanno festeggiando il ritorno di Stefano e io, che per primo ho avuto l'idea di andare dal BIT, non ricevo che rimbrotti e non ho neppure un'anima con cui poter discorrere degli avvenimenti che si preparano. E di questo cittadino Bonaparte, nome impossibile, non riuscirò mai a ricordarmelo. Insomma, di questo nuovo giovane. Ma il mio caro papà aveva avuto il presentimento di come ci si debba sentire soli quando non si è capiti dalla gente che ci sta intorno. E proprio per questo mi ha regalato questo diario. La giornata di oggi è incominciata con una scenata dopo l'altra. Giulia mi ha comunicato l'ordine di mamma. Io dovevo indossare il mio noiosissimo abito grigio e naturalmente mettermi un fichu di pizzo ben serrato intorno al collo. Ho cercato di difendermi almeno dal fichu, ma la voce di Giulia si è fatta subito stridula per la stizza. Credi forse tu di poterti presentare senza fichu intorno al collo e con una grande scollatura come una scappata di casa? Come una del quartiere del Porto? Ecco, voglio dire, credi tu che noi ti permetteremo di comparire davanti alle autorità così, con la gola nuda? Ah. Quando Giulia fu uscita dalla camera da letto, io mi presi in gran fretta il suo scodellino del rossetto. Per il mio 14° compleanno è stato regalato anche a me un po' di rossetto, ma è un rosso rosa, così da bambina che non lo posso soffrire. Trovo che il rosso cerise di Giulia mi stia molto meglio. Me lo stavo dando cautamente e intanto pensavo alla gran pena che avranno avuta le grandi dame di Versailles quando dovevano applicarsi l'una sull'altra le 13 differenti gradazioni di rosso per ottenere l'effetto giusto. Ho letto questo in un articolo di giornale sulla vedova Capeto, la nostra regina, che è stata giustiziata. Il mio rossetto! Quante volte te lo devo dire che non devi servirti delle cose mie senza domandarmi il permesso? Gridò Giulia rientrando in camera da letto. Io mi sono incipriata in gran fretta tutta la faccia e poi ho intinto nell'acqua il dito indice e me lo sono passato sulle sopracciglia e sulle ciglia. Si fa assai più figura quando hanno un po' di splendore. Giulia se ne stava seduta sul letto e mi guardava con aria critica. Allora io ho incominciato a togliermi le papillote dai capelli, ma si intrigano sempre nei miei riccioli. Ho i capelli ricciuti, naturalmente, e così atrocemente ribelli che devo sempre faticare parecchio per ridurli ad altrettanti cavatappi ben lisci pendenti giù fino sopra le spalle. Da fuori si udì la voce di mamma. È pronta la bambina? Finalmente, Giulia? Dobbiamo andare a tavola perché Susanna ed Eugenia possano trovarsi alle 2 alla Maison Commune. Io mi affrettai e divenni così anche più maldestra e non riuscivo più a combinare una qualsiasi acconciatura. Giulia, non mi potresti dare una mano? Si è reso onore a chi se lo merita. Giulia ha delle mani di fata. In 5 minuti mi ha pettinata. Ho visto in un giornale un disegno della giovane marchesa di Fontenay, dissi. Ha i riccioli corti e porta i capelli lisci tirati giù fin sulla fronte. Anche a me starebbero bene i capelli corti. Ah, quella si è fatta tagliare i capelli soltanto perché tutti vedano che è stata salvata dalla ghigliottina all'ultimo momento. Quando il deputato Tallien la vide per la prima volta in carcere, lei portava di sicuro ancora la sua grande acconciatura. E poi, come una vecchia zia, ma io ti sconsiglierei dal leggere degli articoli di giornale sulla Fontenay, Eugenia. Oh, non è proprio il caso che tu faccia tanto la saputa e la posata, Giulia. Non sono più una bambina e so benissimo perché e per cosa Tallien ha liberato la bella Fontenay. E allora? Oh, Eugenia, sei impossibile! Chi ti racconta queste cose? Forse la Maria in cucina? Giulia, dov'è la bambina? La voce di mamma era piena di sdegno. Io finsi di rassettare il mio fichu e intanto mi ficcai in gran fretta quattro fazzoletti nella scollatura, due a destra e due a sinistra. Levati quei fazzoletti, così non puoi andare, udii dire da Giulia. Ma finsi di non aver sentito e aprii in gran furia un cassetto dopo l'altro per trovare la mia coccarda rivoluzionaria. Naturalmente la trovai soltanto nell'ultimo cassetto e me la puntai alla meno peggio sul mio seno ammaliatore imbottito di fazzoletti. Poi scappai giù con Giulia in sala da pranzo. Mamma e Susanna avevano già incominciato a mangiare. Anche Susanna si era puntata la coccarda. Al principio della rivoluzione la si portava sempre. Ma adesso se ne fregiano soltanto i giacobini o quelli che, come noi, vanno a conferire con qualche autorità o con un deputato. Naturalmente, nei tempi più agitati, come per esempio durante le persecuzioni dei giacobini dello scorso anno e durante gli arresti in massa che seguirono, nessuno si arrischiava ad uscire senza la rosetta bianco-rosso-azzurra della rivoluzione. Da principio io ho voluto bene a questa rosetta dai colori della Francia, ma adesso non mi va più. Mi sembra una cosa poco dignitosa questo mettere in mostra la propria idea sulla scollatura, oppure sul bavero della giubba. Dopo la colazione, mamma andò a prendere la boccia di cristallo del vino di Porto. Ieri sera Susanna ne aveva avuto un bicchiere, ma quest'oggi mamma ne ha riempiti due bicchieri e ne ha offerto uno a lei e uno a me. Bevi adagio, il vino di Porto rinforza. Io ne ho bevuto una grande sorsata. Aveva un sapore appiccicoso e dolce e mi sono sentita subito venir caldo e insieme mi ha preso il buon umore. Ho sorriso a Giulia e mi sono accorta che aveva le lacrime agli occhi. Allora lei mi ha addirittura passato il braccio intorno alle spalle e ha premuto la faccia contro la mia guancia. Eugenia, bisbigliò, sta attenta. Il vino di Porto mi dava una grande allegria. Strofinai per scherzo il mio naso contro la guancia di Giulia e le sussurrai a mia volta. Hai forse timore che il rappresentante del popolo Albitte possa sedurmi? Ma che tu non possa mai prendere niente sul serio, disse Giulia incollerita. Non è una cosa da ridere andare alla Maison Commune mentre Stefano è in carcere. Tu sai che. Si interruppe. Io bevvi un'ultima lunga sorsata di vino di Porto, poi la guardai negli occhi. So bene, Giulia, che cosa vuoi dire. Per lo più vengono arrestati anche gli stretti parenti di un uomo che si trova sotto accusa. Si capisce che tanto io quanto Susanna siamo in pericolo, anche tu e mamma del resto. Ma siccome alla Maison Commune ci andiamo noi, voi non vi mettete in vista, è così? Avrei voluto poter accompagnare io Susanna. Le labbra le tremavano, poi si ricompose. E poi, se a voi succedesse qualche cosa, la mamma avrebbe bisogno di me. Oh, non ci succederà nulla, dissi io. E se anche fosse, ebbene, io saprò che tu baderai alla mamma e che farai il possibile per farmi liberare. Noi due dobbiamo stare sempre unite. Non è vero, Giulia? Susanna non parlò mai mentre andavamo verso il centro della città. Camminavamo molto in fretta e neppure quando siamo passate davanti ai negozi di moda della Canebière, lei guardò mai né a destra né a sinistra. Sulla piazza del municipio passò improvvisamente il suo braccio sotto il mio. Io cercavo di guardare mentre passavamo la ghigliottina. Sulla piazza, come sempre, c'era quell'odore di segatura fresca e di sangue rappreso. Incontrammo la cittadina Renard, che da molti anni cuce i cappelli di mamma. La cittadina si è guardata, prima sgomenta da tutte le parti e poi ci ha salutate. Si vedeva che già era stata informata dell'arresto di un membro della famiglia Clary. Davanti al portone della Maison Commune c'era una grande ressa. quando tentammo di farci strada tra la folla, un tale afferrò bruscamente il braccio di Susanna. Lei, poveretta, ha sussultato dalla paura ed è diventata pallida. Che cosa desiderate, cittadina? Vorremmo conferire col cittadino rappresentante del popolo Albit, ho detto io molto in fretta e a voce molto alta. L'uomo, credo che fosse il portiere della Maison Commune, ha lasciato andare il braccio di Susanna. Seconda porta a destra. Ci inoltrammo nella penombra dell'androne, trovammo la seconda porta a destra, l'aprimmo, e ci assalì un tumulto di voci sgarbate e una ripugnante zaffata di aria puzzolente. Da principio non sapevamo proprio che cosa fare. In quell'angusta stanza d'attesa c'era intorno a noi tanta gente in piedi e seduta che a stento ci si poteva muovere. Dal lato opposto della stanza c'era una porticina e davanti a questa stava di guardia un giovanotto. Era vestito come tutti i componenti il club dei Giacobini, bavero alto, enorme cappello nero a tricorno con la coccarda, marsina di seta con i polsini di pizzo fine, mazza da passeggio sotto il braccio. «È uno dei segretari di Albit», pensai. Presi Susanna per mano e incominciai a spingermi innanzi tra la calca. La mano di Susanna era gelida e tremava. Io invece mi sentivo delle goccioline di sudore sulla fronte e maledicevo i fazzoletti della mia scollatura che mi facevano ancora più caldo. «Scusate, vorremmo conferire col cittadino rappresentante del popolo Albit», disse Susanna a voce bassa quando ci trovammo davanti al giovanotto. «Che cosa?» le urlò lui. «Col cittadino rappresentante del popolo Albit», balbettò Susanna una seconda volta. «Tutti quelli che sono in questa stanza vogliono questo. Siete già annunziata, cittadina?» Susanna scosse il capo. «E come si fa ad annunziarsi?» domandai io. «Là, sul davanzale di quella finestra, le cittadine troveranno carta e penna d'oca», disse il giovane Giacobino, che a me sembrava l'arcangelo che sta alla porta del paradiso.